ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Seconda puntata. Il signor Beniamenta è un gigante e noi alunni siamo come dei nani di fronte a questo gigante che è sempre un po' arcigno. Nella sua qualità di governatore, di despota, di una minuscola e insignificante schiera di esseri quale siamo noi ragazzi, bisogna riconoscere che è fatalmente portato alla tetraggine, dato che il dominare noi altri è un compito che mai e poi mai può considerarsi degno delle sue forze. No, di ben altre imprese sarebbe capace il signor Beniamenta. Occuparsi della nostra educazione non può avere altro effetto su un simile Ercole che quello di farlo addormentare, cioè di fargli affondare borbottando il naso nei suoi giornali. Chissà cosa pensava quest'uomo quando decise di fondare l'istituto. In certo senso mi fa pena, e questo sentimento accresce ancora il rispetto che provo per lui. Fra lui e me, del resto, vi fu una scenata all'inizio della mia permanenza qui, se non erro la mattina del secondo giorno, una piccola scenata ma molto aspra. Entrai nel suo ufficio, ma non mi riuscì di aprir bocca. «Torna subito fuori e vedi se sei capace di entrare nella stanza come una persona a modo», mi disse con severità. Io uscii e poi bussai alla porta. Prima avevo dimenticato di farlo. Sentii gridare: «Avanti!» Entrai e mi fermai. «E l'inchino? E che cosa si dice quando si entra da me?» Mi inchinai e con voce stentata dissi: «Buongiorno, signor direttore. Oggi sono così ben allenato che questo buongiorno, signor direttore, mi esce di bocca come uno squillo di tromba, mentre allora odiavo un simile atteggiamento ossequioso e compito e non avevo ancora le idee chiare. Quello che allora mi sembrava ridicolo e idiota, oggi mi appare bello e decoroso». «Più forte, canaglia!» gridò il signor Beniamenta, e io dovetti ripetere 5 volte quel buongiorno, signor direttore. Finalmente mi domandò che cosa volessi. Io ero su tutte le furie e dissi: «Qui non si impara un bel niente e io non ci voglio restare. Mi restituisca i soldi, per favore, e me ne andrò al diavolo. Dove sono gli insegnanti, qui? Forse che qui c'è un qualche piano generale? Un pensiero? No, niente. E io me ne vado. Non c'è forza al mondo che possa impedirmi di abbandonare questo luogo di oscurità e di nebbie. La famiglia da cui vengo è troppo distinta perché accetti di lasciarmi tormentare e istupidire dai più che insulsi regolamenti della sua casa. Intendiamoci, non ho nessuna voglia di rifugiarmi dal babbo e dalla mamma, questo mai. Penso invece di andare sulla strada e vendermi come schiavo. Non ci perderò proprio nulla». Avevo fatto la mia tirata e oggi quasi mi piego in due dal ridere se ripenso a quel mio balordo contegno, ma allora prendevo tutto terribilmente sul serio. Il signor direttore intanto taceva. Io stavo per dirgli in faccia qualche ingiuria grossolana quando lui mi parlò tranquillo. «Il denaro incassato non viene restituito. Quanto alla tua assurda convinzione che qui non puoi imparare niente, ti sbagli. Tu puoi imparare. Prima di tutto impara a conoscere quelli che ti stanno intorno. I tuoi compagni meritano che uno tenti almeno di far conoscenza con loro. Parla con loro. E sta calmo, ti consiglio, bello calmo». Disse queste parole, bello calmo, come se fosse immerso in profondi pensieri che non mi concernevano affatto. Teneva gli occhi bassi, come a farmi capire quanto fossero benevole, miti, le sue intenzioni. Dopo avermi dato questi chiari segni di pensare ad altro, continuò a tacere. Che mi restava da fare? Già il signor Beniamenta si dedicava nuovamente alla lettura del giornale. ebbi l'impressione che mi minacciasse di lontano chissà quale terribile tempesta. Mi inchinai profondamente, quasi fino a terra, davanti all'altro, che ormai non mi degnava più di alcuna attenzione. Dissi, conforme al regolamento, «Riverito, signor direttore», battei i tacchi, stetti rigido, immobile, feci dietro fronte, cioè no, cercai con la mano la maniglia della porta, e sempre fissando in viso il signor direttore senza voltarmi, presi la via dell'uscio. Così finì un tentativo di rivoluzione. Da quella volta non ci sono state altre chiassate. E Dio sa se mi ha picchiato lui, quell'uomo che possiede, ne son certo, un grande cuore. Ma io non ho aperto bocca, non ho battuto ciglio e non mi sono nemmeno ritenuto offeso. Mi ha solo addolorato, e non per me, ma per lui, per il signor direttore. Davvero, è a lui che penso sempre. A tutti e due, a lui e alla signorina, e alla vita che passano con noi ragazzi. Che cosa faranno? Quando sono chiusi nella loro abitazione, di che cosa si occuperanno? Sono poveri? È povera la famiglia Beniamenta? Qui ci sono degli appartamenti interni. Io non vi sono ancora mai entrato, Kraus sì, ma lui è il preferito perché è tanto fedele. Ma su come sia l'abitazione del direttore, Kraus non vuol dire nulla. Quando gli rivolgo qualche domanda in argomento, lui mi sgrana gli occhi in faccia e tace. Oh, Kraus sa veramente tacere. Se fossi un signore, lo prenderei subito al mio servizio. Ma forse una volta riuscirò a entrare in quegli appartamenti. E che cosa vedranno allora i miei occhi? Magari niente di straordinario? Oh, no, no. Ne sono sicuro. Qui dentro, da qualche parte, ci sono cose meravigliose. Una cosa è vera, qui manca la natura. Beh, quello che c'è qui è nient'altro che la grande città. A casa, dappertutto si godevano viste vicine e lontane. Là sentivo sempre, credo, canti e cinguettii di uccelli di su e di giù per le strade, sempre il mormorio delle sorgenti. Il monte coperto di boschi dominava maestoso la linda città. La sera si andava in gondola sul lago vicino. Rupi e foreste, colline e campi si raggiungevano in pochi passi. C'era sempre abbondanza di voci, di profumi. E le strade della città somigliavano a viali di giardini, tanto era morbido e pulito il loro aspetto. Graziose case bianche sogguardavano con malizia dai giardini. Si vedevano delle signore conosciute, per esempio la signora Haag, a passeggio per il parco dietro la cancellata. Sarà sciocco, ma veramente la natura, il monte, il lago, il fiume, la cascata spumeggiante e ogni sorta di canti e di suoni sembravano tutti lì, a portata di mano. Se si camminava, era come passeggiare in cielo, perché da ogni parte si vedeva il cielo azzurro. Se ci si fermava, subito ci si poteva distendere e fantasticare guardando in aria tranquilli, perché il suolo era coperto d'erba e di musco. E gli abeti! Com'era forte, balsamico il loro aroma. Vedrò mai più un abete di montagna? Non sarebbe del resto una gran disgrazia. C'è un profumo, una forza, anche nel rinunciare a qualche cosa. La nostra bella casa non aveva un giardino, ma tutto ciò che si vedeva all'intorno era un dolce, grazioso, immacolato giardino. Non mi struggo di nostalgia, così spero almeno. Sciocchezze, è bello anche qui. Sebbene, a vero dire, non ci sia niente di serio da raschiare sul mio viso, ogni tanto faccio una corsa dal barbiere, tanto per godermi il relativo permesso d'uscita, e mi faccio radere. «È svedese?» mi domanda il garzone del barbiere. «Americano?» «No, neppure. Russo?» «O, insomma, a questo genere di domande venate di nazionalismo mi piace rispondere con un silenzio di tomba e lasciare nell'incertezza quelli che indagano sui miei sentimenti patriottici. Oppure mentisco e dico che sono danese. Ci sono delle sincerità che non fanno che annoiare e ferire». Talvolta il sole sfolgora come impazzito in queste strade piene di movimento. Oppure è tutto piovoso e velato, e anche questo mi piace moltissimo. La gente è cortese, benché io a volte sia di una sfacciataggine inaudita. Verso mezzogiorno capita spesso che mi sieda a oziare su una panchina. Gli alberi del giardinetto sono tutti scoloriti. Le foglie pendono in giù innaturalmente, come fossero di piombo. Certe volte qui sembra che tutto sia di latta e di ferro sottile. Poi viene un altro acquazzone e inzuppa ogni cosa. Si aprono gli ombrelli, le carrozze rotolano sull'asfalto, la gente si affretta, le ragazze alzano le gonne. Vedere un paio di gambe che spuntano da una gonna fa uno strano effetto, come un ricordo familiare. Una gamba di donna così, calzata liscia, non la si vede mai. Ed ecco che invece tutto a un tratto la si vede. Le scarpe aderiscono così bene alla forma dei bei piedi delicati. E dopo torna il sole, soffia un po' di vento e allora si ripensa a casa. Sì, penso alla mamma. Lei piangerà. Perché non le scrivo mai? Non riesco a capirlo. Mi è proprio inspiegabile. Eppure non arrivo a decidermi a scrivere. È così. Non mi va di dare notizie. Peccato, non dovrei avere dei genitori che mi amano. Non mi piace essere amato. Non mi piace che mi si abbia caro. Bisogna che loro si abituino a non aver più un figlio. A qualcuno che non conosciamo e di cui non ci importa proprio niente, è delizioso render servigio. È come guardare nelle nebbie divine di un paradiso. E poi, a pensarci bene, tutti o quasi tutti gli uomini hanno una qualche importanza. Di costoro che mi passano dinanzi in un modo o nell'altro mi importa, è incontestabile. In fondo, del resto, è una questione personale. Io sono qui che cammino, splende il sole, e tutto a un tratto vedo ai miei piedi un cane che uggiola. È una bestiola di lusso. Subito mi accorgo che si è impigliato con le zampette nella museruola. Non riesce a camminare. Mi chino e il terribile guaio è belle rimediato. Ecco che ora la padrona del cane viene alla mia volta, guarda l'accaduto e mi ringrazia. Io sollevo leggermente il cappello davanti alla signora, poi proseguo per la mia strada. E adesso quella lì sta pensando che al mondo ci sono ancora dei ragazzi ben educati. Bene, così ho reso un servizio ai ragazzi in generale. E come mi ha sorriso quella donna, che del resto era tutt'altro che una bellezza. Grazie, signore. Toh, mi ha anche promosso a signore. Sì. Quando uno sa comportarsi è un signore, e quando si ringrazia uno vuol dire che lo si rispetta. Chi sorride è bello. Tutte le donne meritano cortesia. Ogni donna ha qualcosa di fine in sé. Ho già visto delle lavandaie che si muovevano come regine. È divertente tutto questo, oh se lo è. Ma come ha sfolgorato il sole e come sono corso via subito io. Dove? Al grande magazzino per farmi fotografare. Il signor Beniamenta desidera una mia fotografia e devo anche scrivere un mio curriculum che sia conciso e conforme a verità, e per questo mi ci vuole della carta. Bene, così ho anche il divertimento di dover entrare in una cartoleria. Il mio compagno Cilinski è di origine polacca. Parla un tedesco graziosamente storpiato. Tutto ciò che è straniero, non so perché, ha un eco di nobiltà. L'oggetto del quale Cilinski va più orgoglioso è una spilla da cravatta che si può accendere elettricamente e che lui si è procurato chissà come. Gli piace anche, anzi è la cosa che gli piace di più, accendere i cerini. Le sue scarpe sono sempre lucide come specchi. È curioso vedere quanto spesso si pulisce il vestito, lustra gli stivali e spazzola il berretto. Si rimira volentieri in uno specchietto tascabile. Del resto tutti noi allievi abbiamo degli specchietti tascabili, sebbene non sappiamo proprio che cosa significhi vanità. Cilinski è di figura snella, ha un gran bel viso e bei capelli ricci che durante il giorno non può pettinare e curare come vorrebbe. Dice che gli piacerebbe avere un cavallino, un cavallo da strigliare e da pulire e poi da montarci e trottar via. Questo è il suo sogno. Quanto alle sue doti spirituali, sono piuttosto scarse. Non ha la minima acutezza d'ingegno e di sensibilità o cose simili non c'è nemmeno da parlare, eppure non è affatto sciocco. Forse è limitato, parola che però non mi piace pronunciare a proposito dei miei condiscepoli. Che fra essi io sia il più intelligente forse non è nemmeno un motivo di grande soddisfazione. A che servono a un uomo i pensieri e le idee se ha, come me, la sensazione di non saper cosa farsene? Insomma, voglio sforzarmi di veder chiaro, ma non voglio montare in superbia, mai e poi mai sentirmi superiore in mezzo agli altri. Cilinski avrà fortuna nella vita, le donne lo vezzeggeranno e proprio di questo lui ha l'aria, del futuro beniamino delle donne. Il suo viso e le sue mani hanno un colorito bruniccio ma piuttosto chiaro, che dà l'idea di qualcosa di aristocratico, e gli occhi sono timidi come quelli di un cerbiatto. Ha in tutto e per tutto il tipo del giovane nobiluomo terriero. Il suo comportamento fa pensare a un podere di campagna, dove elemento urbano e rurale, abitudini fini e usanze contadinesche confluiscono e si compongono in un quadro umano insieme leggiadro e vigoroso. Gli piace moltissimo oziare e gli piace andare a zonzo per le strade più animate, con grande raccapriccio di Kraus, che odia, incalza e disprezza gli oziosi. «Siete ancora stati a divertirvi, eh?» Così ci riceve Kraus quando io e lui torniamo a casa. Di Kraus dovrò parlare a lungo. È il più onesto e il più attivo tra noi alunni. E l'attività e l'onestà sono veramente come delle riserve inesauribili, incommensurabili. Non c'è nulla che mi ecciti tanto quanto la vista e l'odore di ciò che è buono e onorevole. La bassezza e la cattiveria procurano sensazioni fugaci, ma il rendersi conto di qualcosa di lodevole e di nobile è così difficile, eppure così affascinante, davvero. I vizi mi interessano molto, ma molto meno delle virtù. Adesso dovrò descrivere Kraus, ed è un'impresa che mi spaventa. Leziosaggini. E da quando mai? Spero proprio di no. Ora vado ogni giorno al grande magazzino a chiedere se le mie fotografie sono pronte o no. Posso salire tutte le volte con l'ascensore fino all'ultimo piano. Purtroppo ci piglio gusto e questo si accorda con le altre mie numerose sventatezze. Nell'ascensore mi sento proprio un figlio del mio tempo. Chissà se succede anche agli altri. Quanto al mio curriculum, non l'ho ancora scritto. Mi dà un po' fastidio dire la verità sul mio passato. Ogni giorno Kraus mi guarda più severamente. È una cosa che mi piace. Trovo divertente vedere un po' arrabbiate le persone che amo. Nulla mi fa più piacere del dare una falsa immagine di me a coloro che ho rinchiusi nel mio cuore. Forse non è giusto, però è un atto di coraggio. Quindi sta bene. Certo, so che c'è anche un tantino di morbosità da parte mia. Per esempio, mi raffiguro come indicibilmente bello morire nella terribile consapevolezza di aver offeso e colmato delle peggiori opinioni a mio riguardo quanto ho più caro al mondo. È una cosa che non può capire nessuno, o solo chi sia in grado di sentire brividi di bellezza nella provocazione. Perire miserevolmente a causa di una villanata, di una sciocchezza, è una meta a cui tendere? No, non credo. Ma tutte queste sono sciocchezze della più volgare specie. A questo punto mi viene in mente una cosa e non so per quali ragioni, ma mi vedo costretto a dirla. Una settimana fa, o qualche giorno prima, possedevo ancora una sommetta di 10 marchi. Ebbene, ora questi 10 marchi sono spariti. Un giorno entrai in un ristorante con servizio femminile. Fu come se una forza irresistibile mi attraesse. Una ragazza mi corse incontro e mi costrinse a sedere su un divano. Avevo solo una vaga idea di come sarebbe andata a finire la faccenda. Mi schermii, ma in verità senza grande impegno. Tutto mi riusciva indifferente e nello stesso tempo no. Pregustavo un divertimento senza pari nel recitare davanti alla ragazza la parte dell'uomo raffinato e che guarda dall'alto in basso. Eravamo soli e cominciammo ad abbandonarci alle più graziose stupidaggini. Bevemmo. Lei di continuo correva al buffet a prendere nuove bevande. Mi mostrò la sua deliziosa giarrettiera e io l'accarezzai con le labbra. Oh, come si può essere stupidi. Lei continuava ad alzarsi per andare a prendere qualcos'altro da bere e a gran velocità. Si sa, voleva guadagnare presto presto una bella sommetta di denaro alle spalle di quello sciocco ragazzino. Io lo capivo benissimo, ma era proprio quello che mi piaceva. Che mi considerasse uno sciocco. Che strana depravazione. Rallegrarsi segretamente nel vedere che vi si deruba un poco, ma come lo trovavo affascinante. Intorno a me era come se ogni cosa morisse tra musiche flautate, languide. La ragazza era polacca, snella e flessuosa e incantevolmente licenziosa. Io pensavo, addio ai miei 10 marchi, e la baciavo. Lei mi diceva, chi sei? Dimmi. Hai dei modi da gran signore. Non riuscivo ad aspirare fino in fondo il profumo che emanava dal suo corpo. Lei se ne accorgeva e lo trovava molto distinto. E in verità, che mascalzone è mai quello che senza sentire bellezza né amore frequenta luoghi dove solo l'estasi può giustificare le imprese della dissolutezza? Volli darle a intendere che ero uno stalliere. «Oh no!» disse lei. «Hai troppo bei modi. Dimmi buongiorno». E allora le feci quello che in simili luoghi si suole chiamare buongiorno. Anzi, fu lei che me lo spiegò ridendo e scherzando e baciandomi. E io lo feci. Un minuto dopo mi ritrovai sulla strada vespertina, alleggerito fin dell'ultimo centesimo. Che effetto mi fa ora ripensarci? Non lo so. Una cosa so, però. Bisogna che trovi il modo di procurarmi ancora un po' di soldi. Ma come fare?